ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Premetto con lo scudetto, voi lo vincete! Ma mi fa ridere la cosa che c'erano i juventini già pronti e come il 5 maggio! L'Inter a Roma e noi a Udi! Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Vedo che tutti i club hanno raggiunto i loro obiettivi, però nessuno dice che il loro obiettivo era lo scudetto. Volentieri, se nessuno vuole vincere, cerchiamo di prendercelo noi. Solo De Ligt, ultimo baluardo, Fofana passa in area di rigore, Fofana! È clamoroso quello che accade alla Lazio Arena, vince l'Udinese nel recupero probabilmente la partita. Volevamo vincere la partita a tutti i costi, siamo cominciati a essere disordinati e abbiamo portato la partita su un binario pericoloso e poi l'abbiamo persa al 93esimo proprio per volerla vincere a tutti i costi. Noi dell'Inter, e noi quest'anno dobbiamo provarci, quest'anno che la Juve non sta andando bene. Dobbiamo fare bene con quelli che abbiamo, non è che ci possiamo appellare agli infortuni. Gli infortuni sono stati tantissimi, e come purtroppo abitudine per la Juventus nelle ultime stagioni. Sarri, 38 gol subiti, la Juventus non accadeva da quando arrivò settima in campionato l'ultima volta. Anche 12 rigori contro, non è un numero che solitamente subiscono le grandi squadre, penso sia il record di tutti i tempi. L'interista doveva essere una giornata di merda, invece fu tutto contrario, hai capito? Buon pomeriggio a tutti. Oggi sessione plenaria, seduta plenaria di tutti i convocati. Ciao Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Ciao. Non l'avevo sentita i 12 calci di rigore, no? Spiegazione. Ah no? No. E beh, insomma, no. Ti era sfuggita perché è una di quelle cose strane che sono successe ieri sera. Pierluigi Pardo, Radio Twitty? Ma Radio Twitto sul Ciapanò, il traversone, io non so, come lo chiamate a Milano? A parte ieri Zeng ha detto pure Ciapanò. Burla Joe a proposito di Immobile che era caduto, secondo lui, maliziosamente. E quindi sto ripassando il milanese. E è Ciapanò puro, questo è evidente, insomma, sembra veramente la frase di Paratici è indicativa, sembra veramente che nessuno voglia prenderselo il campionato, io penso che la Juve se lo prenderà. Mi sbilancio, non ci vuole, diciamo, la palla di vetro, se lo prenderà domenica sera, sì. Perché penso che vincerà in casa contro la Samp, però rimane in finale di stagione atipico, secondo me dovuto anche alle partite ogni tre giorni, che sicuramente hanno cambiato qualcosa, hanno aumentato la propensione alle sorprese, però non c'è solo questo, questo. La Juve al 99% vincerà il campionato con dei numeri che non sono da Juve, che non sono da squadra campione d'Italia. I numeri peggiori degli ultimi 9 anni, anche perché anche qui bisogna, in questo bisogna leggere quello che succederà. Saluto Fabrizio Biasina e Guido Vaciago, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Allora io vi lascio con una considerazione: la Juventus ha trovato un nuovo modo di vincere lo scudetto, cioè il più sadico di tutti, facendo impazzire di rabbia e di rimpianto gli avversari che secondo me si sono macchiati del peccato mortale sportivo, cioè quello di non crederci. Fabrizio. Sì, è vero che tante squadre hanno perso un'occasione d'oro quest'anno, perché quest'anno la Juve era vulnerabile, però è anche vero che dobbiamo ragionare sul contesto. Il contesto del calcio quest'anno è qualcosa di inedito e sinceramente forse in una situazione normale la Juventus avrebbe avuto anche meno problemi, non lo so. Io faccio fatica a fare un ragionamento sul calcio quest'anno perché, per esempio, io non mi ricordavo, ma stasera si rigioca un'altra volta. Abbiamo finito ieri sera. Devo fare la formazione e non so chi mettere perché sono tutti infortunati. Cioè, capisci che è un delirio anche per gli allenatori. Cioè, giocatori che ci sono un giorno e il giorno dopo non ci sono più, non si capisce più niente. Guido? No, sono d'accordo, è difficile tirare dare delle conclusioni, fare un'analisi in questo calcio, però io credo che la Juventus lo scudetto l'abbia vinto prima del lockdown, perché ieri mi andavo a rivedere in previsione dell'eventuale taglio dello scudetto e quindi dover fare dei bilanci, mi andavo a vedere il percorso della Juventus e devo dire che i punti, che il passo regolare lo ha tenuto prima dell'interruzione per il Covid. E quindi credo che i rimpianti di Inter, di Atalanta, eventualmente della Lazio, debbano essere riferiti alla prima parte del campionato, quando la Juventus ha preso il ritmo e non l'ha mollato. Poi in questa seconda parte ovviamente è stata una delle squadre che ha avuto più problemi, ne ha avuti meno della Lazio per esempio, ne ha avuti più o meno quanto l'Inter. Solo l'Atalanta e il Milan non ne hanno avuti tutto sommato di problemi. Sì, però Guido, allora Giovanni, tu ti ricordi una settimana fa, esattamente venerdì scorso, eravamo qui a dire remontada, sì, no, tu non ci credevi, ma in fondo non ci credeva nessuno di noi, però... Io. Ah, tu sì, bravo, bravo. No, ma lo dico per onestà intellettuale, poi la remontada non ci sarà. Non sfilate. No, ma poi la remontada non ci sarà, quindi mi sto auto... No, ma guarda comunque che... sconfitto, però non ci sarà non perché la Juve... Bravo, non perché la Juve... Perché le altre nel frattempo hanno perso. Però vi posso dire una cosa, anche a livello di comunicazione, cioè pensate un attimo a Sarri prima della partita di ieri sera era nella fase buona, no? Tutti dicevano però Sarri alla fine lo scudetto lo porta a casa, è stato bravo, finisce la partita e torna a essere un povero scemo che non capisce niente. Sì, ti ricordi il detto di Galliani, no? Se vinci sei un campione, se perdi sei... Qui succede ogni 72 ore, però. Ogni 72 ore, davvero. È la vita, ragazzi. Ho capito. Io volevo chiedere a Guido se... Perché quello che dice è assolutamente giusto. Cioè, c'è una prima parte della stagione in cui la Juve marciava con un ritmo importante. Io ricordo che la prima sconfitta della Juve arriva all'Olimpico, credo il 7, spero di non sbagliare la data, comunque all'inizio di dicembre. 7 dicembre. Con la Lazio. Sono meglio di frate indovino sui calendari, sulle date, e quindi quella è la prima sconfitta, però non è che questo significa che all'inizio, quando la squadra andava un po' sulle proprie conoscenze, e lo stesso Sarri probabilmente intelligentemente all'inizio ha sposato, comunque ha accettato quello che si è trovato fra le mani, insomma, la squadra andasse meglio, e adesso che invece l'ambizione è quella di trovare una sintesi nuova, la squadra fatica di più, non lo so, poi magari fra un mese commetteremo la Juve campione d'Europa, perché può essere, perché questo è un calcio talmente strano che tutto può essere, quindi sì, sarà tutto strano, però commentiamo, però... No, il cammino è stato quello, Pier, però se rimaniamo in cronaca, allora ripeto, venerdì scorso eravamo qui a dire ma possibile remontata, tu dicevi di sì, noi tutti quanti di no, perché la Juve tanto alla fine se la piglia, però la Juventus alla fine ha fatto 5 punti nelle ultime 5 partite. E... Però Carlo, sì. La Juve l'ha vinto prima lo scudetto, o meglio gli altri hanno cominciato a perderlo prima, ha ragione in questo Guido. Mi viene in mente chi adesso probabilmente sta tirando le testate più forti contro il muro, che è sicuramente Conte con l'Inter. Di solito gli scudetti non si vincono a gennaio o febbraio, ma si perdono in quella fase di stagione, e l'Inter in quella fase di stagione, se vi ricordate, perse 2 partite e ne pareggiò 3, perché fino a lì aveva corso esattamente al ritmo della Juventus, e lì ha cominciato a perdere lo scudetto. Poi dopo il lockdown ognuno ha semplicemente ingigantito i propri difetti. Però Giovanni, io chiedo penso a te, questo, a parte la Lazio che è crollata e basta. Poi sento anche Fabrizio, però non ti ha deluso l'atteggiamento con cui l'Inter ha approcciato le partite? A Roma, con la Roma non era facile, però dal punto di vista dell'atteggiamento non sembravano esattamente quelli che vogliono mangiarsi il campo e provarci. Contro la Fiorentina uguale, vince con le 2 partite, vince col Genoa, passa sabato notte in testa insieme alla Juventus. No, poi Carlo, non mi ha deluso, perché pensare in quel momento, cioè in quella settimana delle 2 partite che tu citi, che l'Inter fosse in corsa per lo scudetto, significava fare un atto di fede. E per una squadra che ha ancora ad agosto l'Europa League, secondo me significava anche immaginare di investire in questo atto di fede delle energie che non ci sono. Sassuolo Juve, ragazzi. Ma no, ragazzi, ma l'Inter lo scudetto lo butta via con altri due approcci che sono invece ingiustificati. Perché voi dovete ricordarvi quello che dice Conte prima del recupero con la Sampdoria. Conte, non noi, Conte dice l'Inter è in corsa per lo scudetto. Dopo, e difatti comincia battendo la Sampdoria. Non passa nemmeno una settimana. Non passa nemmeno una settimana e l'Inter ha un approccio alla partita col Sassuolo che è ingiustificabile ha una gestione della partita col Bologna che è ingiustificabile. In quel momento storico l'Inter può ancora pensare di vincere lo scudetto. Per questo secondo me non si può parlare troppo di rimpianti scudetto, cioè evidentemente l'Inter è una squadra che non è ancora pronta per affrontare le 38 giornate tutte allo stesso livello, cioè è una squadra che deve ancora fare il salto di qualità da quel punto di vista, cioè ci sono delle partite. Ma infatti alla fine vincerà la squadra migliore, inutile che ci facciamo mille discorsi sul fatto che l'Atalanta gioca un calcio più bello, che la Lazio forse l'ha giocato per una buona parte della stagione. Sull'Atalanta io non sono d'accordissimo, perché secondo me se c'è una squadra che ha dimostrato di avere dei valori superiori quest'anno è stata proprio l'Atalanta, che ha iniziato Fabrizio, forse però un il campionato inferiore. Inizia la giornata 1 e finisce la giornata 38, non è che le prime 5 fanno parte di un'altra stagione. Sicuro. O di una prestagione, cioè se tu nelle prime 5 non fai punti significa che hai dei limiti. Giovanni, se l'Inter, io ti dico, l'Inter nei due scontri diretti con la Juventus ha strameritato di perdere all'andata e al ritorno, l'Atalanta no. L'Atalanta no, e con quei due scontri diretti in un'altra maniera probabilmente adesso la classifica sarebbe molto però diversa. Però voglio chiedere anche a Guido se non è rimasto sorpreso invece dall'atteggiamento dell'Inter, perché conoscendo Conte sai benissimo, ti aspetti un approccio diverso, e Giovanni ha fatto benissimo a ricordare quelle due partite con Sassuolo e Bologna che sono in fondo la chiave di tutto. Però io proprio perché conosco Conte mi aspettavo che in questo periodo che era strano ed era particolarmente stressante Conte potesse anche avere un effetto negativo, perché lui è un allenatore che come sappiamo tende a stressare molto le squadre, tende a tirare il collo psicologicamente i giocatori. Farlo in questo micro campionato che si è giocato dal 20 giugno fino ad ora con ritmi infernali e con anche pressioni notevoli, io credo che forse Conte proprio fin da quella dichiarazione che presupponeva quella a cui facevate riferimento, cioè l'Inter in corsa per lo scudetto, cosa che lui avrà ribadito anche nello spogliatoio, reiterando il concetto con energia, con foga, con tutto quello che è Conte, di cui Conte è capace. Ecco, io credo che questo possa aver in qualche modo influito. Quindi in realtà, proprio conoscendo Conte, una gestione di partite così ravvicinata e così stressante forse non era un valore aggiunto ma era un problema. Io in questo periodo di diciamo post lockdown avrei visto molto bene un allenatore come Allegri, che probabilmente avrebbe saputo gestire con più calma la situazione. Detto ciò, l'analisi di questa seconda parte della stagione è molto complicata. Io mi rifaccio a quello che ha detto Fabrizio: rischiamo di prendere delle cantonate pazzesche, perché non sappiamo fino a che punto certi risultati sono dovuti a dei difetti reali delle squadre o se sono legati alle circostanze che sono effettivamente molto particolari. Sì, resta il fatto. Io credo, Carlo, nel caso della Juventus, perché poi di questo in realtà stiamo parlando soprattutto oggi, alla luce di quello che è successo ieri sera, è che io credo che quello che abbiamo visto dopo il lockdown sia abbastanza simile a quello che abbiamo visto prima. Ti faccio l'esempio: noi abbiamo un'ultima e una penultima fotografia della Juventus prima del Covid. La penultima fotografia è quella cosa brutta che è stata la partita con il Lione in Champions, che era accompagnata da mille attese di scintilla, ricordi? Anche il presidente Agnelli ce ne aveva parlato. E l'ultima fotografia invece era stata molto bella, scintillante, il secondo tempo di Juve-Inter. Ecco, il dopo Covid è stato questo, cioè la Juventus che va a intermittenza, gioca mezz'ora, si spegne per 40, fa 5 partite senza prendere gol e ne fa 7 in cui ne prende quasi sempre almeno 2 se non 4, quindi è una squadra che tu adesso, ed è questa la grande sorpresa, non sai esattamente che cosa ti può offrire partita per partita. Io penso che domenica sera non avrà problemi con la Sampdoria, ma la verità è, alzi la mano chi mette la mano sul fuoco e dice la Juventus va, fa due gol nel primo tempo e l'ha chiusa come se è abituato a ragionare Ha ragione Pierluigi, ha subito 13 gol nelle ultime 6 partite, non era episodico alla fine Pier, quella cosa che è successa a Milano con il Milan, non era un lampo nel buio. 13 gol nelle ultime 6 vuol dire che peggio hanno fatto solo il Brescia con 16 e la Spal con 20. A me Sassuolo-Juve dopo Milan-Juve mi ha proprio sconvolto. Sì. Ma sconvolto perché in un momento come quello caldo della stagione, una partita dove vai avanti 2-0 con tutto il rispetto per il Sassuolo, che è una delle squadre più in forma, lo sta dimostrando continuamente, però vai avanti 2-0 dopo un quarto d'ora, insomma concedere 10 palle gol al Sassuolo come è successo. Cioè io vedo delle cose che non sono da Juve, poi rimango convinto che il campionato l'abbia buttato via la Lazio con una settimana in realtà, 10 giorni di follia, perché già secondo me da Udine in poi la Lazio era diversa e poi ne abbiamo parlato relativamente poco, secondo me anche Juve-Lazio è una partita dove insomma si poteva anche girare, è una partita che poteva anche girare, poi è chiaro che quando arrivi lì a meno 8 e prendi un palo, che poi aveva preso anche la Juve, perché da tutto può cambiare, ma alla fine il verdetto sarà giusto, anche perché lo sport è fortunatamente, a differenza di altri settori della vita, è quasi sempre meritocratico. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio, la Juve merita di stare lì davanti, e anche la Juve ha le sue occasioni perse, perché pure la Juve ha buttato via dei punti e forse ha anche gestito la situazione, cioè forse manca la controprova, ma forse in un duello punto a punto non avremmo visto la Juve fare le figure che ha fatto ultimamente, però non sono figure da Juve, e me lo dicono proprio i tifosi juventini, cioè sono loro i primi a non essere del tutto. Ma non sono neanche Pier parole da Juve, no? Quelle che abbiamo sentito prima, io le ho volute sottolineare, non le avevo sentite ieri sera. Non è una spiegazione dire che c'è il record di rigori contro, non è una spiegazione neanche da dire in battuta. Ma che poi il momento di rigori, in cui Giovanni, tu andrai, sì, ma va, perché sicuramente statisticamente sarà il record di rigori, io non lo metto in dubbio, e avrà una sua valenza, al di là che quest'anno di rigori ce ne sono una caterva per tutti. Però dico, in un momento in cui tu comunque ti appresti a vincere lo scudetto, comunque hai dopo la Champions, comunque è giusto che ti si chieda conto di alcune cose che non funzionano, di cui stiamo parlando, ma anche con spirito sereno, adesso senza pensare che Sarri stia sui coglioni a qualcuno, come ha detto lui, altra frase assolutamente fuori luogo. Il richiamo ai rigori, perdonatemi, è una roba da calcio di provincia. Sì, sono d'accordo. Tu Guido? Sì, diverso è dire, secondo me invece giustamente, per quello che ho io, che contrariamente a quello che molti dicono, questo è un campionato con tanti errori arbitrali, ma onestamente lo dico sempre e lo ribadisco, io non vedo un vento a favore, insomma ieri Zenga si è lamentato per un episodio sullo 0-0, poi comunque che era rigore, poi Cagliari è andato in vantaggio comunque, cioè ci sono state tanti episodi, quindi un conto secondo me è dire dal punto di vista della Juve, pretendere rispetto, perché poi mediaticamente invece se c'è un episodio a tuo favore storicamente vieni impallinato, quindi è giusto secondo me sottolineare questo. Il riferimento ai rigori, sono d'accordo con te, non è una cosa che appartiene al DNA della Juve storicamente. No, non appartiene al DNA della Juve quello, Guido Vaciago, e non appartiene al DNA della Juve quello di avere un match ball in un momento così importante, in cui è anche essenziale avere poi tre amichevoli per approcciarsi più morbidamente alla Coppa. Anche in questo caso parlo di atteggiamento, quello della Juventus di ieri sera non è da Juve, insieme a quelle parole di Sarri. Non è da Juve ed è un atteggiamento anche in controtendenza rispetto a quella che è stata la Juve degli ultimi 8 scudetti, cioè una squadra più spietata, più sempre pronta a tirare la mannaia sul campionato. E credo che questo possa essere responsabilità in parte di Sarri. Bisogna fare attenzione a dare le responsabilità a tutto l'allenatore, perché secondo me già nell'anno precedente, nell'ultimo di Allegri, soprattutto nella parte finale della stagione, si erano visti i prodromi di quello che è stata poi la Juve di quest'anno, quella intermittenza che avete descritto perfettamente, adesso mi è sfuggito chi lo stava facendo, ma che era quello il concetto, cioè già con la parte finale di Allegri tutto sommato si era vista la squadra che si accendeva e si spegneva. Mi ricordo per esempio le due partite con l'Ajax, soprattutto quella di Amsterdam, che era stata una partita a due facce, che sembrava essere proprio una specie di antipasto di quella che è stata la Juve di quest'anno. Fabrizio, volevo aggiungere una cosa. Secondo me questo dipende dalla rosa, perché io faccio questo ragionamento da Berlino, finale di Berlino a Cardiff, i titolari uguali erano tre. da Cardiff a oggi i titolari sono passati 3 anni, all'epoca invece ne erano passati soltanto 2. I titolari che non sono cambiati, i giocatori diciamo che non sono cambiati, sono 11. Ecco, complessivamente secondo me la forza della Juve in questo ciclo è stato sempre, è stato quello di cambiare in continuazione, cambiare freneticamente, sì, rinnovando le motivazioni. Quindi adesso è un po' consumata. Secondo me questa è una squadra consumata nelle motivazioni. Alcuni giocatori forse avrebbero bisogno di rinfrescare gli stimoli e alcuni forse di cambiare proprio aria. Tutto vero, tutto giusto. Io sono curioso di vedere, perché poi tutto questo Sarri non ha ancora rotto il ghiaccio. Probabilmente, molto probabilmente domenica sera vincerà il campionato e magari da lunedì ci sarà una serenità anche diversa, anche da parte dello stesso Sarri. E magari verrà fuori anche un'impresa in Europa, io non lo posso escludere, proprio perché la Juve comunque è capace di anche di grandi cose. Quindi io penso che ci sia anche questo elemento da tenere in considerazione. Lui in questo momento ha perso la Supercoppa Italiana, ha perso la Coppa Italia, ha bisogno di rompere il ghiaccio, secondo me, per entrare ancora di più in empatia col popolo bianconero, con la squadra. E quindi io non escludo un grande finale di stagione e lo auguro ai tifosi juventini. Però quello che secondo me è diverso rispetto all'anno scorso è il controllo della situazione, cioè la Juve che abbiamo visto contro l'Ajax è una squadra che ha fatto una pessima figura e che è stata meritatamente eliminata dall'Ajax, è una squadra che non ha saputo fare un certo tipo di salto di qualità nelle grandi partite d'Europa, però era una squadra che questo campionato qui, con le occasioni che ha avuto, se lo sarebbe già mangiato da un pezzo. Sicuro, sono convinto anche se Fabrizio, torno da te, anche se ha ragione Guido, cioè io condivido l'opinione di Guido, cioè è una squadra consumata nelle sue motivazioni. Ma ti posso dire, infatti noi siamo molto concentrati su Sarri, come è giusto che sia, no? Il nuovo allenatore, però anche a livello di gestione delle cose, dalla comunicazione al mercato eccetera eccetera, quella di quest'anno è un'altra Juventus, è una Juventus che qualche errore lo ha commesso ed è fisiologico, per amor del cielo, non è che puoi essere sempre perfetto nel corso di 10 anni, però noi diciamo che Sarri ha sbagliato e sta sbagliando in alcune cose. Devo dire che anche a monte, anche la stessa dichiarazione di Paratici ieri del pre-partita non è molto da Juve, cioè prima della partita non dici vado a prendermi lo scudetto, aspetta la fine poi dici me lo sono preso. È un po' più diciamo strategica. Senti, come cosa ti chiedo un'ultima cosa poi ti saluto, invece il papà di Messi che prende casa a Milano e riapre i sogni estivi, io credo che sia, alla fine bisogna anche smetterla di vivere di suggestioni al tempo futuro, no? Ma allora praticamente l'Italia è diventata la nuova Panama, vengono qui a scaricare un po' di tasse, a recuperare un po' di quattrini, dopodiché a me che il papà di Messi prenda casa frega assolutamente pochissimo, non credo che questa cosa sottenda il tentativo dell'Inter di arrivare a Messi, sinceramente anche questa cosa, cioè l'Inter è una società seria che prova a costruire la sua squadra passo dopo passo, sbaglia, non sbaglia, tutto quello che vuoi. Ma non è che bisogna ragionare su Messi, Ronaldo, io tutti i giorni sento che si deve costruire la squadra vincente prendendo questo giocatore qui, ma non funziona così, una squadra vincente non passa dal colpo e poi vediamo cosa succede. E siccome conosco chi lavora all'Inter, Marotta e Ausilio, so che stanno facendo le cose in una maniera un pochino più logica rispetto a quella che vogliamo fare credere. Come è giusto che sia peraltro, grazie Fabrizio. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Allora rispondiamo con Guido Vaciaga a Domenico da Torino. Buongiorno Domenico. Buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. Vi ascoltiamo tutti i giorni. 800 24 00 24, se volete prenotarvi poi parliamo. Dica. Allora, io sono un tifoso laziale, vivo a Torino da 40 anni e sposo proprio su tutta la linea le parole di Pierluigi Pardo. Cioè lo scudetto, secondo me l'ha perso la Lazio più che l'Inter e l'Atalanta che hanno fatto, soprattutto l'Atalanta, un gran campionato. Ma noi alla chiusura del campionato eravamo il pre-Covid, avevamo un punto di distacco dalla Juve. Le altre erano a 11-12 punti. Il problema è quello che è successo dopo. L'unica quello che è successo, non so cosa è successo. Abbiamo Lulic che non sa neanche più se torna a giocare e tante cose, quindi lasciamo stare. Questo non lo so, ma è una cosa, cioè l'unica squadra, cioè, lo ribadisco con un po' di arrabbiatura, che poteva ambire a vincere lo scudetto eravamo noi. E ha detto anche di tutti gli amici Gobbi che ho qua a Torino, che dove mi giro ne trovo. No, ma non c'è dubbio, il problema è che la Lazio si è spenta. Guido, invece come va la Juventus verso il Portogallo? Prima verso il Lione, ma credo che quello, in tutta onestà, mi rifiuto di pensare che possa essere un problema anche per questa Juventus. Ma poi verso il porto dello però, dici? Dipende, perché razionalmente non deve essere un problema e non può essere un problema, ma se tu prendi uno o due gol a partita diventa un problema anche scalare un 1-0. Sì, soprattutto bisogna essere onesti e concreti. Se tu prendi un gol ne devi fare tre, diventa un'impresa anche contro il Lione che è fermo da quando è fermo. Il problema è che se ti spegni, Guido, in questo modo a partita in corso, facciamo contro il Manchester City, ipotesi, ne prendi 12. È quello che ho scritto oggi nel mio commento, cioè se abbandoni la partita a metà abbandoni la competizione to cure. Quello che posso dire, mi rendo conto che non sia una perla di saggezza, è che in realtà non sappiamo che Juve troveremo il 12 di agosto all'inizio della Final Eight, ammesso che la Juventus ci arrivi battendo il Lione, ma diamo per scontato questo risultato. La Juventus si troverà a giocare a Ferragosto, per l'esattezza, contro il City o contro il Real Madrid. E da qua a Ferragosto bisogna capire che cosa cambierà, bisogna capire cosa cambia anche nelle motivazioni dei giocatori, proprio per il fatto, prima parlavamo di motivazioni, e lì si tratta di imbroccare tre partite una di fila all'altra. È molto difficile dirlo, però secondo me questa Final Eight può aprire a delle sorprese clamorose proprio per la formula. Si gioca ogni tre giorni, si gioca da Ferragosto al 23, è una cosa, non dico che sia una lotteria, perché il calcio, prima giustamente si diceva che in fondo poi alla fine non è che questo calcio folle giocato ogni tre giorni abbia stravolto completamente i valori. Però è vero che ha lasciato spazio a molte sorprese, lì non ci sono... Lì ci sono le 8 migliori squadre d'Europa, può succedere veramente di tutto, anche che la Juve vinca la Coppa, non è da escludere. La Juve ha una rosa all'altezza, sì. Cristiano Ronaldo, Dybala, ha una difesa che recupererà che è all'altezza delle migliori d'Europa, cioè forse il centrocampo non è all'altezza, però potrebbe fare questa cosa. Però ragazzi, se vogliamo un po' di bene alla Juventus in prospettiva di questa Champions League, secondo me il passo uno che dobbiamo fare è smetterla di dire che il Lione è una cosa scontata, bisogna pensare a Ferragosto, perché ripeto, l'1-0 in trasferta o l'1-0 in casa, se la mettete dal punto di vista del Lione, non è un pessimo risultato, perché ti consente con un gol in trasferta di giocare a quel punto in discesa. E scusate, ma la Juventus degli ultimi 15-20 giorni è una squadra che imbarca gol da tutti con continuità, anche in situazioni di stress, quindi non in situazioni in cui ha staccato la spina e sta giocando delle amichevoli perché ha già vinto, e che onestamente oggi non ti fa dire che da qui al 7-8 agosto tu hai la certezza che la Juve debba risalire da un 1-0 senza prendere gol, e allora è tutto un altro discorso. Quindi secondo me il primo modo è dire che per andare a Lisbona bisogna fare qualcosa di importante, perché noi ci siamo abituati nell'ultimo mese a immaginare che la partita con il Lione fosse semplicemente il giorno in cui si chiudono le valigie per andare a Lisbona. E purtroppo la realtà di oggi, purtroppo per i tifosi della Juventus, ci ha detto che non è così. Ragazzi, fermiamoci un attimo. Io confido molto, cioè confido, credo che una chiave importante possa essere finalmente vincere questo campionato, perché secondo me vincere questo campionato libererebbe molto del carico psicologico su Sarri e sulla squadra che si sta accumulando di settimana dopo settimana. Poi sono d'accordo con Guido, è già difficile pronosticare una competizione con 8 squadre, figuriamoci con partita secca, quindi poi tutto può succedere, con Lione non te la porti da casa, insomma deve cominciare una combustione positiva, si deve alimentare un meccanismo di fiducia, di entusiasmo che in questo momento non c'è. Però insomma, resta il fatto che se poi la campione d'Italia, quale migliore benzina? Chiaro. Resta il fatto che se campione d'Italia lo diventerà, resta il fatto che se poi veramente vai a casa con Lione, squadra che non gioca una partita ufficiale da 5 mesi, beh, allora a quel punto credo si debbano rivedere molte altre cose, comprese le dichiarazioni dei giorni scorsi. Ringrazio Guido Vaciago, ci fermiamo per la borsa e poi spazio agli ascoltatori. 800 24 00 24. Ciao ragazzi e complimenti per la trasmissione. La Juve sta facendo di tutto per arrivare a pari punti con l'Inter, ma nonostante tutto non ce la fa. Non ce la fa. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta convocati. Secondo me la Juventus ha semplicemente rallentato, si è fermata, perché praticamente anche le altre prima di lei si sono fermate. Se la Juve sentiva la pressione degli avversari ci avrebbe dato dentro di più, non avrebbe perso col Milan, non avrebbe perso con punti col Sassuolo e l'Atalanta e via dicendo. Buongiorno, sono Leonardo. Il signor Sarri e il signor Conte, se hanno un po' di pudore, devono andare in società e darle le dimissioni, che hanno fallito e non hanno dato niente di più, sia alla Juventus che all'Inter, specialmente il signor Conte, che ha fatto una campagna acquista da 400 milioni. Buongiorno Genta, però bisogna anche dire che la miglior Juventus sarà quando avremo ancora il centrocampo con giocatori che sanno giocare a due tocchi e che usano destro e sinistro, come lo usavano Marchisio, Pogba, Vidal, Pirlo. Quelli sapevano usare i due piedi, quello che purtroppo in questo momento lo sa usare solo Betancourt, perché gli altri sono un disastro. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp. Invece telefonate. Marco, buongiorno. Marco? Duomo, Siracusa. Marco, buongiorno da Siracusa. Buongiorno. Buongiorno. Dimmi. Prego. Allora, chiamo dalla meravigliosa Piazza Duomo, dove c'è tanta gente, no? Sì. E stamattina io ho parlato con 3-4 juventini e dopo due minuti ho girato le spalle, ho salutato e me ne sono andato. Motivo? Perché tutti stanno dicendo Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri. Io vi vorrei ricordare che il signor Sarri i primi due mesi non ha allenato per problemi personali, sì, che tutti conosciamo. Il Covid, dico, il signor Sarri ha vinto un campionato, non dimentichiamo che non ha avuto il signor Chiellini, non dimentichiamo che non ha avuto il signor Khedira che l'anno scorso ha fatto 8 gol, non dimentichiamo che non ha il signor Mandžukić, ma dal signor Sarri cosa pretendiamo di più di quello che ha fatto? Il signor Sarri ha vinto un campionato già a 3 mesi, è arrivato in finale di Coppa Italia, è in Champions e ha la possibilità di andare agli quarti di finale. Insomma, prima di fare un processo a Sarri, facciamo fine la stagione. Vi saluto, un abbraccio. Grazie. A Pardo che ama Siracusa. Sì, non solo lui. Chi non ama Siracusa? Uno che ha dei problemi può non amare Siracusa. Chi non c'è andato, insomma, avrà la possibilità. Vabbè, insomma, no, io penso che sia giusto riportare un po' le cose al centro. Infatti non è che Sarri fra poche ore potrebbe diventare campione d'Italia, è un allenatore di campo che ha dimostrato in questi anni una grandissima crescita, questo. Però insomma io credo che si debba anche dire che ad oggi è il 24 luglio, quella aspettativa, quella speranza se vogliamo di crescita in termini di gioco, in termini di risultati, di solidità per una squadra che ha già vinto gli 8 campionati precedenti, secondo me non c'è stata. E questo secondo me è oggettivo, sì, e non vuol dire pensare modo, che Sarri no, sia uno scemo. Sarri è un grande allenatore, certo. Tra l'altro è un allenatore che mi piace perché è un allenatore che ha un'idea di calcio anche divertente e propositiva. Però insomma noi giudichiamo quello che vediamo. Quello che vediamo è una squadra che vincerà il campionato. È interessante anche la teoria, lo dicevo prima, di quell'ascoltatore. È possibile pure che la Juve certe licenze se le sia prese, perché poi da quando la Lazio è crollata in realtà è andata in controllo della situazione. Non lo sappiamo perché le altre sotto pressione non ce l'hanno non messa sappiamo, mai. Però insomma io sono anni che vedo calcio, sono anni che vedo la Juve, e la Juve secondo me alcune partite quest'anno le ha perse in una maniera, ha subito delle rimonte che in passato non subiva a Verona, con la Lazio, ieri, e non è nella storia della Juve recente. Certo. Poi magari questa cosa qui porterà a un... Del resto Sarri è stato preso per fare una scommessa, per crescere nelle grandi partite, aspettiamo, tanto siamo in onda tutta l'estate, poi, abbiamo anche adesso, stiamo registrando un promo Carlo, molto divertente. Tra l'altro sì, da lunedì sì, un'ora e mezza, ve lo ricordo, Urbi e Torbi da lunedì extra time dalle 14 alle 15. Naturalmente conquistiamo il palinsesto, attacchiamo Focus Economia, sforiamo sulla zanzara, mi piace. A che ora comincia? Alle 5 e mezza Focus Economia? Ce la possiamo fare? Ma vediamo, perché se il campionato continua a essere così, poi con la Champions, Barisoni e Cruciani dovranno farsi una ragione. A parte le battute, cioè secondo me l'equilibrio dare una notizia a parte le battute. Intanto la notizia che rileva, perché non è una notizia da poco, è che Sarri deve fare a meno di Douglas Costa. che ieri si è fatto male, lesione di secondo grado del muscolo adduttore, dice il comunicato della Juventus, tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato, e fra 15 giorni è il giorno di Juventus-Lione e poi dopo è la settimana di Lisbona, quindi attenzione, chiaramente non è un problema per le ultime tre di campionato, perché la Juventus questo scudetto, e lo abbiamo detto in tutte le lingue, lo vincerà probabilmente domenica, ma comunque insomma lo porta a casa. Però Douglas Costa non è un giocatore banale nei ritmi del calcio post-Covid, e non lo è in assoluto. È assolutamente uno dei più sarriani, cioè, anche questo aspetto qui, no? L'ascoltatore da Siracusa diceva per esempio la rinuncia a Mandžukić, però cioè, voglio dire, è venuta fuori, ha scelto Sarri tra le altre cose, appunto, scelto Sarri. Ma legittimamente, è venuta fuori ad oggi, se noi dobbiamo valutare la stagione della Juve, che ripeto è una stagione che con ogni probabilità domenica, o se non sarà domenica sarà mercoledì, porterà lo scudetto, che ha ancora delle prospettive aperte in Europa, non è chiaramente una stagione da buttare, ci mancherebbe altro, il campionato lo vince una sola e al 99% lo vince la Juve, quindi figurati, chapeau. Però insomma l'ambizione era fare un salto di qualità, l'ambizione era di fare, è venuta fuori una cosa un po' ibrida, perché non abbiamo visto la squadra di Sarri, nella quale uno come Douglas Costa, che ha avuto tanti infortuni, sicuramente sarebbe stato importante, e non vediamo neanche la squadra di Allegri, che aveva i suoi difetti, ma che probabilmente una partita come quella di ieri, per banalizzare, la porta a casa, la portava a casa, o comunque la giocava con un altro atteggiamento. No, ma è così, è una squadra, una creatura abbastanza ibrida questa Juventus, che non è né di qua né di là, è a mezza strada. E poi non sottovaluterei quello che ha detto prima Guido Vaciago, c'è cioè una squadra un po' consunta dal punto di vista non solo anagrafico, ma anche delle probabilmente delle motivazioni. Allora saluto te, Pier, ciao. Ciao. Ciao. Così mi saluti, così. No, se vuoi abbiamo ancora un paio di ascoltatori. Così te ne vai. Così te ne vai. Tanto abbiamo domenica. Ah, non me ne vado io. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, domenica ciao. Ci sentiamo comunque, ovviamente. Giovanni sta con me fino alla fine di questa puntata, Traffico, poi Diego, Tony e poi Elia Viviani, perché oggi Juventino, tra l'altro, quindi sono curioso di chiedere cosa, di chiedergli come sta vivendo questa fuga difficile della Juventus. E poi oggi deve essere anche il giorno in cui sarebbero cominciate le Olimpiadi. Tra l'altro c'è una notizia non bella relativa a Zanardi, perché ve lo dico così: è stato trasportato dal centro di riabilitazione a Lecco in terapia intensiva a San Raffaele perché c'è qualche problema sulle sue condizioni fisiche. Traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Tutti convocati. Tony Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Pronto? Volevo dire che io hai messo un interista. Sì. Però secondo me Sarri sta tenendo alta la tensione fino all'ultimo, non come gli altri anni che avevano smesso di giocare a gennaio, avevano già vinto. Secondo me non tutti i mali gli vengono per nuocere in Champions. Ma può essere. Tenere la tensione alta è qualcosa che comunque ti mantiene in gara, devi mordere. Quando invece hai la pancia piena molli. Beh, insomma, io credo che per un paio di settimane di allenamento agonistico, dovendo ancora giocare, schifo non gli farebbe. Saluto Elia Viviani, ciao! Ciao a tutti! Ciao, senti, ma da Juventino, prima di farti le domande da medaglia d'oro olimpica, da tifoso Juventino, questa Juve in fuga, in crisi di fame, come la vivi? Mi sa che ieri abbiamo trovato l'Udinese con tanta voglia di salvarsi, quindi probabilmente avevano più grinta in campo di noi, ecco. La vivo che siamo sotto stress, però insomma speriamo che vada a finire bene. Sì, lo scudetto lo si porta a casa. Oggi doveva essere il giorno della cerimonia inaugurale di Tokyo, ci hai pensato? Ci ho pensato perché è ora uno degli obiettivi importanti di quest'anno. Ho tantissima voglia di provare a ripetere la medaglia d'oro di Rio e quindi ci ho pensato. È solo messo slittato di un anno, cioè siamo in un momento di pausa con la pista, ma è ovvio che l'Olimpiade è e rimane nei miei pensieri. E come sta andando la preparazione della nuova stagione, visto che insomma tra poco siamo pronti, manca poco, con il primo d'agosto comincerò, rinizierò questa strana stagione, però sono pronto, sarà una stagione flash di 3 mesi belli intensi e l'obiettivo è quello di farsi trovare pronti da subito. Ci sarà la Milano Sanremo, i miei grandi obiettivi l'8 agosto, il Tour de France partirà il 29 agosto. Tour de France partirà il 29 agosto e noi avremo un sacco di cose da raccontare, Giovanni. Ah sì, non c'è dubbio, per tutta l'estate sarebbe bello se riusciamo a recuperarlo, capire come se la immagina questa stagione flash, perché noi abbiamo cercato di immaginarla per tanti sport a partire dal calcio e non abbiamo capito nulla, adesso possiamo dirlo, e nel senso che è uscita diversa da quella che avevamo in testa di cui parlavamo ad aprile, a maggio, quando si immaginava la possibilità di ripartire. Allora sarebbe bello capire da Elia come se la immagina lui invece la stagione del ciclismo. Adesso stiamo provando a recuperarlo. Intanto c'è Diego da Padova. Buongiorno Diego. Buongiorno. Io sono munito di molta pazienza, visto la figuraccia che ho fatto con Allegri qualche tempo fa, perché non mi piaceva e poi mi sono ricreduto, sono diventato allegriano. Convinto. Quindi sei una vedova. Sono una vedova di Allegri, però io sono con Sarri e penso che la società Juventus abbia bene in mente cosa, cioè ha deciso di cambiare la mentalità della squadra, quindi ci vuole del tempo e abbia messo in preventivo che magari quest'anno non poteva vincere lo scudetto, quindi credo che lo scudetto sia una cosa guadagnata che magari era un po' inaspettata, visto il cambiamento di mentalità, di come difende la Juve, che sta prendendo tutti i gol in contropiede, in trasferta, cose mai viste. Io vedo la mentalità dei giocatori, anche Bonucci inizio stagione ha detto che stanno facendo il contrario di quello che gli chiedeva Allegri. Mi ha colpito molto quella dichiarazione di Bonucci, tanto che l'ho citato un milione di volte nel corso di questa stagione. E quindi io sono per dare un po' di tempo, aspettiamo che finisca questa stagione e poi valutiamo Sarri, ma credo abbia bisogno di un po' di tempo per creare bene il suo gioco, penso io. Allora, è tornato di Viviani, Giovanni, quindi puoi chiedergli quello che stavi dicendo. No, volevo chiedergli come se la immagina questa stagione flash, la definita, perché noi ci abbiamo provato per 2 mesi con il calcio e non abbiamo capito niente, è uscito un post-Covid totalmente schizofrenico. Il ciclismo è un po' diverso perché consente di selezionare gli impegni, però lui come se la immagina, al di là che sarà molto calda e faticosa? Ma una stagione, come detto, sarà strana ma piena di appuntamenti importanti. Quello che conta è che ci siano tutte le gare del calendario più importanti per noi. Quest'anno dovremmo fare delle scelte, ma penso che il livello sarà alto comunque. Probabilmente abbiamo dei problemi di comunicazione. Vabbè, riproveremo perché mi interessava questa risposta. Intanto diamo una risposta a Diego da Padova, Giovanni, che dice? Ma no, la risposta io credo sia nella realtà, cioè è chiaro che, allora, noi abbiamo avuto prima del Covid Agnelli in radio, a me piace ripetere perché Agnelli non parla molto, però quando parla dice cose che al di là di sconvolgimenti poi restano almeno per qualche mese, se non di più, incise nella pietra, e lui ci ha spiegato chiaramente come il progetto su Sarri, Nedved e Paratici, cioè tutto il progetto della nuova Juventus, fosse un progetto triennale, quindi a meno di terremoti io sono convinto che, come diceva Diego, a Sarri debba essere dato tempo, così come sono certo che a questo punto abbia vinto lo scudetto, e non è un dettaglio aver vinto lo scudetto o no, però dopo un anno di lavoro è legittimo, senza offesa per nessuno, porre qualche domanda e anche fare qualche critica, ma io immagino, da quello che ho capito, che anche dentro l'ambiente Juventus stiano analizzando, anche senza necessariamente arrivare alle critiche, perché pur con 1000 spiegazioni e dentro il club ne sapranno 2000 di spiegazioni in più di quelle che possiamo capire noi, è chiaro che questa fase di trasformazione della Juventus si è rivelata più difficoltosa di quanto ci si potesse immaginare. Io in mezzo ci metto anche un mercato, quello sì, dell'estate scorsa, che è stato un mezzo mercato, perché la verità è che la Juve ha fatto fatica a cedere, e certo, non tutte le scelte sono state delle scelte, alcune sono state delle dinamiche sarà particolare. Senti, salutiamo Livio Viviani perché ci tenevo, l'abbiamo recuperato. Un saluto. È così, ci tenevamo a salutare. Un saluto a tutti, oggi è così, mi dispiace. Ma tanto abbiamo tempo per aspettare. Nelle gallerie della Milano Sanremo. Nelle gallerie a preparare la Milano Sanremo. Ciao Elia, abbraccio. Ciao a tutti, grazie ciao, mille. Ciao. Grazie mille a voi. Ciao. Giovanni, però volevo, tu hai ragione in quanto dici, il piano triennale alla Juventus non ragionano con la pancia, non prendono le decisioni con la pancia sulla base dei risultati del giorno prima. È anche vero che l'anno scorso, quando tutto sembrava orientato verso una prosecuzione del regno Allegri, quella imprevista, quell'imprevista scivolata dolorosissima con la ex ha cambiato un po' tutto. Ora, però è vero che c'era già una dialettica, è vero che Allegri è arrivato al quinto anno, questa non è una differenza da poco. Quello di Allegri si poteva considerare un ciclo chiuso, poi si poteva ragionare se potesse andare avanti o no, si poteva ragionare se fosse giusto o no, però dopo 5 anni tu puoi immaginare di ragionare su un dopo e chiudere un ciclo. Sarri lavora alla Juventus da un anno, tra l'altro un anno che è assolutamente anomalo, come abbiamo raccontato in mille modi, e quindi sarebbe da un certo punto di vista una scelta traumatica quella di separarsi da Sarri alla fine di questa stagione. Sì, sarebbe uno sconfessare la decisione presa in precedenza, ripeto, credo non con la pancia ma ragionando in maniera approfondita. Pier Giulio, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Dica. Io volevo fare una riflessione su quello che è accaduto ieri e sta accadendo in questa stagione. Sicuramente la squadra è sopravvalutata, almeno a mio modo di vedere. Se pensiamo anche ai team acquisiti, non so, un Danilo faceva panchina al City, non è che fosse titolare. Sono giocatori, credo, sopravvalutati. Nel complesso, al centrocampo, che è il fulcro della squadra, il migliore è Betancourt, che l'anno scorso aveva qualche apparizione con Allegri. Per buona metà della stagione era titolare inamovibile, Allegri non lo toglieva neanche nella weekend. Lo so, però insomma, non era certamente il Pjanic o il Matuidi, o come diceva qualche telefonata, il Vidal, Pogba o Pirlo, insomma, un altro film. Su Sarri, secondo me, è bravo allenatore, ma credo che sia meglio cambiare, ma per tutti, ma anche per lui. Cioè, in una situazione più grande della sua, le pensi aziendalmente. Ma comunque questo vorrebbe dire abbiamo fatto una sciocchezza a prendere Sarri, scusateci, torniamo indietro. Insomma, non è una cosa da pochissimo questa. Giovanni, domenica ci sentiamo, adesso chiudiamo. Domenica 17-19, e quindi a questo punto sarà una domenica che cercheremo di raccontare aspettando quello che succede dalle 19.30, quando ci sarà la Lazio, e poi alle 21.45 Juventus-Sampdoria, che insomma dovrebbe essere la domenica dello scudetto, altrimenti andiamo anche la settimana dopo, non c'è problema, tanto le ferie le abbiamo cancellate. Esattamente, e anzi da lunedì, ve lo ricordo, aggiungiamo un overtime a tutti i convocati dalle 14 alle 15.30. Io ringrazio ovviamente Giovanni Capuano, poi Claudia Schiattone in redazione, a domenica. Roberta Frisani e Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti. Venga, è stato una montagna russa. Ciao Radio 24. Saluti. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.